Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno, benvenuti a Magazine 24, ben svegliati. Cominciamo la nostra edicola virtuale dei rotocalchi delle riviste, aprendo Famiglia Cristiana, che la scorsa settimana aveva dedicato una copertina molto seria al cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi, proclamandolo uomo dell'anno, personaggio dell'anno. Questa settimana una copertina piuttosto più leggera, più frizzante, su Zelig, la fabbrica delle risate. Torna alla trasmissione con Bisio e la Cortellesi, e fa un po' la storia di questa fabbrica delle risate, come la definisce, con questo Zelig nato in un piccolo circolo di tradizione operaia, che è diventato il più grande acclamato spettacolo TV di cabaret degli ultimi 25 anni, scrive Famiglia Cristiana. E questa edizione parte con una nuova conduttrice, la Paola Cortellesi, che è stata anche al centro di un po' di polemiche, perché per ogni puntata riceverà 65.000 euro. E l'articolo, mi piace segnalarlo, è fatto da Gigi Vesigna, lo storico direttore di TV Sorrisi Canzoni, che ha fatto per 25 anni, portandolo a un successo grandioso. Famiglia Cristiana ovviamente parla anche di cose più serie, ha una lunga intervista, anche con una chiacchierata con Giuseppe De Rita, titolata Il Vangelo secondo gli italiani, in cui fa un'analisi sulla come sta cambiando la realtà sociale dell'Italia, e De Rita parla sempre col suo linguaggio molto fantasioso, molto incisivo, e non risparmia neanche la gerarchia della Chiesa. In particolare dice: la Chiesa sta bevendo un calice amarissimo, e se vuole continuare, vuole smettere di bere questo calice amaro, deve cambiare rotta. L'Italia di oggi, dice De Rita, va disperatamente cercando momenti comunitari, associativi, il più forti possibili. La gerarchia della Chiesa li vede ma non li valorizza, preferisce giocare in prima persona, a cominciare dai valori non negoziabili, e i laici stanno in panchina. Ecco, De Rita auspica invece che venga rafforzato questo ruolo dei laici nella Chiesa, e quindi nella società, senza per questo trasformarsi in un partito politico. Famiglia Cristiana comunque si dedica anche a un altro, vi segnalo un altro articolo che è molto divertente, perché Famiglia Cristiana non smette mai di stupire. Questa volta fa un lungo articolo su Quelle signore a tutta birra. Se pensate ai conduttori delle bevande come corpulenti mastri birrai, dovete ricredervi. Alla Forst in Alto Adige comanda il gentil sesso. Racconta la storia di questa azienda dove ci sono due signore alla guida, mamma e figlia, alla guida di questa azienda che produce 700.000 ettolitri di birra in un anno, e che hanno un fatturato di 80 milioni di euro. Questa è un'azienda molto forte, e non è facile trovare aziende così grandi gestite direttamente da mamma e figlia. Un altro articolo che vi segnalo di Famiglia Cristiana è L'ospedale a casa tua. Parla dell'ANTA, Associazione Nazionale Tumori, che dice: uno staff di oltre 360 medici, psicologi, infermieri che ogni giorno assistono a casa loro gratuitamente 3.300 malati di tumore, la maggior parte molto gravi, e questa ANTA opera in 10 regioni. L'hanno definito probabilmente il più grande ospedale italiano, ospedale sulla strada. Un servizio straordinario, il volontariato non smette mai di stupirci con una forza, una capacità di assistere, di essere vicino a chi soffre o chi ha bisogno, che è eccezionale. Un altro articolo proprio che stupisce per Famiglia Cristiana è dedicato ai Negramaro, il rock con il singhiozzo. Il rock con il singhiozzo. La band salentina torna dopo 3 anni di silenzio con un nuovo disco, Casa 69, che celebra l'amicizia e la solidarietà. perché insieme si vince, da soli no, dice il leader dei Negramaro. Un articolo che non ti aspetteresti su un giornale come Famiglia Cristiana, che dedica anche un ampio spazio alla libreria a portata di web. Rispetto al libro tradizionale, l'ebook ha più funzionalità. Oltre al testo originale, può trasmettere ipertesti, materiali multimediali e spiega quali sono le novità, anche tecnologiche, le biblioteche virtuali, i libri che si possono scaricare, tutto sempre con un linguaggio molto semplice e molto accessibile, perché i lettori di Famiglia Cristiana non sono ipertecnologizzati, quindi devono essere accompagnati passo dopo passo. Proseguiamo la nostra rassegna delle riviste. Passiamo a Quattro Ruote. Nel numero di gennaio, Quattro Ruote fa un super test per la nuova Opel Astra e soprattutto fa una lunga disamina sui nuovi modelli che vedremo quest'anno. Titolo: Alziamo il sipario. Dalla Lancia Y alla Renata Tema, dalla Volkswagen Up alla prima crossover Fiat, dalla Toyota Yaris alla BMW Serie 1, tutte le stelle di una stagione di esordi eccellenti. Sappiamo che l'industria automobilistica non sta andando molto bene, le vendite del 2010 sono andate malissimo, le prospettive economiche per quest'anno non sono molto positive, però i maggiori big dell'auto stanno preparando nuovi modelli, perché devono, solo chi innova riuscirà ad emergere. Non sarà ancora l'anno della svolta decisiva per l'auto elettrica, probabilmente bisognerà ancora aspettare un paio d'anni per un debutto effettivo, però ci saranno nuovi modelli che promettono una sensibile riduzione dei consumi, e in particolare in questo caso il gruppo Fiat ha dei progetti molto importanti, che vanno dalla nuova Panda a rinnovi delle Ferrari e anche a i primi modelli che nascono dalla fusione / integrazione con Chrysler. Un altro servizio che voglio segnalarvi su Quattro Ruote è il cimitero dell'Alfa. Scrive Quattro Ruote: siamo entrati nel cuore della vecchia struttura abbandonata del Biscione. Siamo ad Arese. Recuperati solo una parte, oggi i capannoni offrono uno spettacolo desolante, e se chiudi gli occhi senti ancora gli odori e i rumori di una città che un tempo aveva 18.000 abitanti, che era quasi un impianto, un villaggio autosufficiente che produceva da solo anche la propria energia. Ora, continua Quattro Ruote, che ha anche un bel servizio fotografico allegato a questo sfacelo degli impianti di Arese, restano rottami e oggetti per i quali un collezionista sarebbe pronto a svenarsi. Difatti si vedono macchine smembrate, parti anche vecchie, targhe. La mensa era lunga 800 metri, funzionava con l'ordine di quello delle caserme. E fa vedere invece tutto lo sfascio attuale. Ci sono anche fotografie della sala vicina alla mensa, dove c'erano calci balilla, tavoli da ping pong e tutto quello che appunto era operativo in un villaggio autosufficiente. C'era anche il viale dei ciliegi, fatti arrivare da Vignola per addolcire la fabbrica. Ora ovviamente non c'è niente di tutto questo. Concludiamo questa prima parte di Magazine 24 con Il Mondo. Il Mondo, che dedica la copertina a una lunga analisi sulle banche. Il titolo: non fanno più soldi. Hanno messo sotto la lente i bilanci delle principali banche italiane e straniere, e si vede che in 3 anni la redditività degli istituti di credito è precipitata. Colpa della crisi, ma anche di strategie discutibili, dice Il Mondo. Ed è impressionante vedere, a parte alcune eccezioni come il Banco Popolare di Sondrio o la Banca Cassa di Risparmio di Genova, tutti gli altri hanno avuto un forte ridimensionamento degli utili, della redditività, e con una tabella molto divertente. Banca Popolare, il mondo ha messo anche a confronto le previsioni per il 2010 e poi i risultati ottenuti. Nella gran parte dei casi i risultati ottenuti sono lontani da quello che era scritto in bilancio. Il mondo però continua poi con anche i suoi classici consigli sugli affari, su come investire i propri risparmi e un'analisi in modo particolare sulle opportunità che ci possono essere in Asia. Conclude con l'iPad 2, che è in arrivo e che sarà l'apripista definitivo del touch. Nel 2011 domineranno definitivamente gli schermi sensibili e la nuova versione del tablet di Apple migliorerà ancora con cornici più sottili e altoparlante più potente, e poi una raffica di novità dai concorrenti. Magazine 24. Bene, bentornati a Magazine 24, sono sempre Nino Ciravegna, sole 24 ore. Ricominciamo la seconda parte di oggi con Airone, il mensile che dedica la copertina sul potere delle escort. Hanno influenzato re e imperatori, sono ricercati da imprenditori e uomini politici, ma vorrei evitare di parlarvi di questa storia del sesso a pagamento per segnalarvi alcuni articoli su Airone che trovo molto interessanti o divertenti. Primo, un numero dedicato alla scienza, il momento perfetto. La cronobiologia è una scienza che stabilisce qual è l'ora più adatta della giornata per mangiare, dormire e fare sesso. Saperlo ci aiuta a vivere meglio. Non sapevo che esistesse questa cronobiologia, ma mi sembra molto dettagliato l'articolo di Airone, in cui prende tutta una serie di ore classiche, in cui per esempio si scopre che dalle 18 alle 20 c'è un aumento della temperatura corporea e l'attenzione della forza muscolare, mentre invece dalle 20 alle 22 c'è un aumento dell'acidità gastrica, e ci sono tutta una serie di consigli come organizzare la propria giornata per sfruttare meglio tutte le opportunità. In particolare dicono: difficoltà a concentrarvi, scrive Airone, ritmo sonnoveglia scombussolato, forse mangiate troppo e male. Alla conclusione sono giunti un gruppo di ricercatori dell'Università di Chicago che hanno dimostrato come il consumo eccessivo di cibo può alterare le basi dei ritmi cardiaci e in particolare del controllo dell'appetito. E qui spiega quindi come ovviare a questi problemi e di come organizzare meglio tutti i momenti permetteranno di stare meglio. Un altro articolo interessante, che sempre legato alla scienza, che è molto divertente, è l'elogio della muffa. Il titolo è: dalla muffa c'è tutto da imparare, non solo in gastronomia. Infatti la muffa del gorgonzola ci permette di avere un formaggio straordinario. Per costruire le reti metropolitane, ad esempio, gli ingegneri dovrebbero ispirarsi a un fungo specializzato in percorsi brevi. Questo sommario di Airone incuriosisce. L'articolo racconta di questa particolare forma di polvere, di muffa, che sfrutta il percorso più breve per trovare nuove fonti di cibo spendendo la minor quantità di energia possibile. E hanno fatto un esperimento che è molto particolare. Hanno fatto crescere questa muffa in un ambiente che riproduceva la mappa di Tokyo, e la muffa ha stabilito una rete che per efficienza è paragonabile, se non superiore, al sistema metropolitano reale. Quindi si potrebbe utilizzare questo sistema per mille cose, per mille altre esperienze. La muffa è più importante, va da sé, è la penicillina, che ha salvato molte vite umane e non da tanto scoperta e valorizzata non molto tempo fa. Mi ha incuriosito quando Irene parla di penicillina, che vuol dire, il nome deriva dal latino, vuol dire pennello notevole. È stato un pennello che ha salvato molte vite umane. ovviamente, essendo il numero di gennaio, anche questo Airone parla, come gran parte dei giornali, di come sarà il 2011, di come affrontare il 2011. Questo va sotto la sezione comportamento, anno nuovo, vita nuova. La scienza ci spiega come e perché faremmo bene a rispettare almeno 5 buoni propositi per il 2011. 5 buoni propositi che sono: il farò sport, mangerò meno, mangerò meglio, staccherò la spina e smetterò di fumare. Sono 5 propositi che ovviamente tutti facciamo a inizio dell'anno, sono buoni propositi che probabilmente tutti o in larga parte non abbiamo rispettato a fine anno. Quello che mi sembra più curioso è lo staccherò la spina, che è il più, virgolette, fantasioso rispetto agli altri. E qui che Airone consiglia: se ne hai la possibilità nel fine settimana, scappa da traffico, smog e rifugiati nel verde. Come spiega lo psicologo Roberto Delle Chiaie, la città è piena di stimoli che causano uno stress acustico, i clacson delle auto, i rumori causati dai lavori stradali. Noi non ce ne rendiamo conto, ma con il tempo questo inquinamento genera un logorio degli ormoni che si attivano incoscientemente. A poco, senza accorgerne, ci stressiamo. Inoltre lo smog sarebbe una delle cause dell'impennata delle allergie che si è registrata negli ultimi decenni. Quindi staccate la spina, vi consiglia, imparando, vi consiglia Airone, che dà dei consigli utili come ottimizzare il proprio tempo libero. Anche in questo caso si dice: stabilisci le tue priorità, rimanda tutto ciò che non hai il tempo di sbrigare, finisci un lavoro prima di iniziarne un altro, ritrova il dolce far niente. Un ottimo consiglio, soprattutto in questo momento che dobbiamo riprendere la normale attività dopo il periodo natalizio. Un'ultima cosa di Airone che trovo particolarmente interessante e dedicata nel settore tecnologie, racconta, il titolo è Un museo in casa. Racconta di una tecnologia messa a punto da una piccola azienda di Novara che permette di ammirare i capolavori anche nei minimi particolari. Si chiama Alta Definizione, con la H davanti, Alta Definizione, non so come si pronunci, ed è una tecnologia che permette davvero di dilatare all'infinito i piccoli particolari. L'occhio di Venere della Botticelli viene espanso in misure molto, molto ampie. Particolari di pochi millimetri si possono ingrandire fino a 10-15 centimetri. E questo è un modo per vedere in modo particolarmente da vicino cose che spesso sfuggono all'occhio umano. Hanno fatto un lavoro incredibile, per esempio, con l'ultima cena di Leonardo, per realizzare una copia perfetta digitale con 16 miliardi di pixel. Sono state fuse 1677 immagini, fino al risultato finale in cui è possibile ammirare particolari di millimetri difficilmente osservabili a occhio nudo. E la cosa che è molto bella in questo caso è che a farlo non sia stato il classico colosso americano o giapponese, ma una piccola azienda di Novara di cui non si era mai sentito parlare finora. Quindi il classico esempio dell'imprenditoria italiana che ci stupisce sempre. E anche un minimo di umorismo: l'azienda si chiama HAL 9000, che è esattamente il nome del computer del 2001 Odissea nello spazio, ma in questo caso è un'azienda positiva, non come HAL, che è finito per dare i numeri. Passiamo a Donna Moderna. Di Donna Moderna vi segnalo i classici consigli molto pratici che solo Donna Moderna sa dare per organizzare efficientemente la propria vita, sia contro il grande freddo e sia contro per sfruttare meglio tutte le cose che abbiamo in casa. L'hanno chiamata l'arte della manutenzione. dalle stoviglie agli abiti e ai mobili, impara a tenere bene le tue cose, ma soprattutto un articolo che vi voglio richiamare perché potrebbe interessare molte lettrici. Entro il 15 aprile scade il termine per partecipare al progetto Donne Lavoro, la grande iniziativa lanciata da Donna Moderna della Fondazione Vodafone Italia, che offre 300.000 euro per finanziare 3 imprese sociali al femminile, cioè imprese create da donne per aiutare altre donne. E Donna Moderna continua a scrivere: le aziende devono rientrare in 3 ambiti: solidarietà, per cui imprese che favoriscono l'insediamento del mondo del lavoro a chi ha problemi personali o economici, web e casa e lavoro, facilitando la vita delle donne spesso costrette a dividersi tra donne e carriere. I 3 progetti ritenuti migliori riceveranno 100.000 euro ciascuno e le domande vanno spedite appunto entro il 15 di gennaio. Quindi se avete qualche idea imprenditoriale, qualche idea di attività sociale, approfittatene, c'è ancora poco tempo. Concludo con l'Europeo in edicola che racconta il primo decennio del nuovo secolo, 2001-2010, 10 anni in 150 immagini, perché quasi un modo per non perdere la memoria di questi 10 anni straordinari in cui è successo di tutto, dall'attacco alle Torri Gemelle all'avvio di nuove tecnologie, uno scenario economico internazionale cambiato radicalmente, fotografie straordinarie e grandi firme del giornalismo. Per il momento concluso, vi ringrazio, buona domenica, a risentirci a presto.